America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Io avevo un ufficio all'89° piano dove è andato l'aereo e sarei dovuto morire bruciato lì, ma avevano spostato, quindi già 2 anni prima si era deciso che non morivo. Forse qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, è la voce di Lucio Caputo, che ha iniziato la sua carriera qui a New York tanti anni fa con l'ICE, facendo promozioni importanti per l'immagine italiana, e poi ha costituito un suo istituto, il Wine Institute, qui a New York, che fa soprattutto promozione di vino italiano in America ed è diventato il più importante istituto di questo genere. Ma Lucio Caputo si trovava in una delle torri, si trovava nella Torre Nord e riuscì a fuggire dopo l'attacco. In questa ricostruzione, in questo ricordo che noi facciamo di quell'attacco in vista del 10° anniversario dell'11 settembre, beh, qui ai microfoni di America 24 abbiamo 10 anni dopo Lucio Caputo. Buongiorno Lucio. Ciao Mario, come stai? Lucio, cominciamo da quel giorno. Raccontaci che cosa è successo. Quel giorno io ero, come al solito, al club al 110° piano e sono sceso prima, non si sa perché, era una bella giornata, guardavo le torri che erano meravigliose, era tutto bene, però a un certo punto io ho detto, beh, scendo. E sono tornato in ufficio, che nel frattempo ci avevano spostato dall'89° piano al 78. E quindi scendi al 79. Lì sono entrato in ufficio, mi sono messo a telefonare e ho fatto l'ultima telefonata a questa mia amica Benedetta Sainaghi, che stava a Milano, e a un certo punto lei mi aveva chiesto di mandargli un fax. Io mi stavo per alzare dalla sedia per andare al fax quando c'è stato questo scoppio pauroso, proprio sembrava lì di fronte a me, le torri si sono mosse, avevo questo enorme specchio davanti alla scrivania, l'ho visto 2 metri sulla sinistra, 2 metri sulla destra. Naturalmente sono saltate le luci, sono iniziati gli allarmi, c'era polvere dappertutto, avevo un divano che era sul verdine diventato bianco, le porte sbattevano, un casino completo. In quel momento ho avuto la sensazione che crollassimo e sono rimasto come paralizzato. Poi non siamo crollati, allora mi sono alzato e ho cercato di vedere cos'era. Sono uscito dall'ufficio, non si vedeva niente, c'era un nebbione pazzesco dappertutto. Ho cercato di vedere, vedevo gente che correva, sentivo strilli, pianti lontani, ma non vedevo niente. Perché, scusa Lucio, l'impatto dell'aereo è avvenuto a livello del... all'89° piano. Proprio all'89° piano, dove avevate l'ufficio. Però a me sembrava che era stata la porta accanto, io pensavo che era scoppiato qualcosa alla porta accanto. Certo. E certamente non pensavo all'aereo. E quindi lì stavo lì. Poi avevo cominciato a vedere, intanto era tornata la luce, di vedere questi allarmi che facevano un fracasso il diavolo, cercavo di telefonare alla polizia per sapere cos'era. Insomma, è passato del tempo, cercavo di rimettere in funzione il computer, quando è suonato all'improvviso, nonostante i telefoni non funzionasse, ha suonato il telefono ed era un comune amico, Massimo Iaus. E gli ho detto, Massimo, guarda, qui è successo qualcosa, possiamo sentirci più tardi. Lui mi ha detto, sei pazzo, scappa, scappa, scappa, un aereo ha colpito il World Trade Center, scappa in fiamme. Per cui ho preso una torcia, una delle asciugamani perché non si respirava, per scendere, e sono andato giù a grande velocità. Ho fatto dal 78° piano fino al 40° piano, non c'era più nessuno perché intanto era passata più di mezz'ora. Arrivato lì ho incontrato i pompieri che salivano, già erano mezzi morti, ne sono fatti 40 piani di scale, un caldo pazzesco in quelle scale. Questi poi salivano, sai, con tutte le tute, avevano i caschi, che aveva le bombole d'ossigeno, che aveva i tubi, che aveva l'ascia, e io provavo a chiedergli, ma che è successo, l'aereo? Questi non mi rispondevano per niente, un po' perché non sapevano, probabilmente un po' perché non riuscivano a parlare per la stanchezza. Così dal 40° al 23° piano sono sceso abbastanza lentamente, perché ogni pompiere che saliva bisognava farsi da parte per farlo passare. Arrivato lì al 23° piano, quelli che c'erano ancora li facevano entrare in quel piano dove c'era l'aria condizionata, quindi la gente entrava lì, sembrava soddisfatta. Tra l'altro devo dire che la discesa era molto ordinata, non c'era panico, non c'era confusione, molto civile. Io però quest'idea di entrare lì, perché intanto, pensando alla telefonata di Massimo Iaus, mi ero reso conto che non era un incidente, era un attentato, e che dovesse stato un grosso aereo, perché un aereo da turismo non avrebbe provocato quello scivolo. E quindi lì una decisione importante. Lì una decisione strana, perché io ho guardato, mi sono girato e ho continuato a scendere. Le scale ormai erano vuote, dal 23° piano al lobby sono andato velocissimo. Sono arrivato nel lobby, che era un campo di battaglia, e quando mi sono orientato, perché veramente non si capiva niente, sai, ti ricordi, c'erano i lampadari del Benini, sì, tutti a pezzi, i marmi di Carrara tutti rotti. Sono andato verso il garage pensando, prendo la macchina e vado via. Lì ho incrociato un poliziotto che correva, che mi ha detto, dove stai andando? Io ho detto, in garage. Lui mi ha detto, sei pazzo, non puoi andare, vattene. E se n'è andato, però è scappato. E io ero sempre solo lì e sono arrivato fino davanti agli ascensori, stavo per pressare il bottone per chiamare l'ascensore, quando sempre inspiegabilmente mi sono girato. Sono andato verso il concourse e sono uscito dalla libreria Brooks, c'era una libreria lì, non mi ricordo più come si chiamava, sulla Church Street, e erano praticamente le 10:34 circa. E quindi c'era già stato il secondo attacco nel frattempo. C'era stato il secondo attacco e la seconda torre era già caduta. Quindi quando io sono uscito ho guardato e mi sembrava di stare a Beirut, perché al posto della seconda torre c'era questo cumulo di macerie fumanti, carte in aria, e guardato la mia ed era in fiamme, tutto il sopra e tutto in fiamme. Cercavo di telefonare a mio figlio per dire guarda che sono ancora vivo, quando all'improvviso è stato questo urto, questo rumore fortissimo, come qualcosa mi ricordava le fortezze volanti dei tempi degli aerei elica, quando ce n'erano tante, tutti insieme. Uh-huh. E ho visto questa enorme palla di carta che volava da tutte le parti, dei detriti che mi veniva addosso. Ho corso come un matto la strada Liberty Street fino a Broadway Street. Io sono arrivato lì, mi sono accovacciato dentro il palazzo, sfondato la porta addirittura per entrare, e lì si è fatta notte, perché è arrivata tutto il materiale, la massa, detriti, sì. La massa, proprio notte, buio completo. Sono stato lì qualche 20 minuti finché è cominciato a rischiarare. A un certo punto ho visto delle torce, erano dei poliziotti che arrivavano e dicevano le torri sono cadute, c'è nessuno vivo, e ho detto sì, ci sono io. Ho preso il telefonino perché volevo sempre telefonare a mio figlio, sì. Giorgio, il telefonino continuava a non funzionare, sì. C'era questa poliziotta che aveva un telefono da campo e le ho detto mi fa telefonare a mia figlia, e lei ha detto no, questo è un telefono di servizio, guardi, dico, gli devo dire che sono vivo. Questa mi ha detto dammi il numero, lei ha fatto il numero. Mio figlio, che a quel tempo faceva il master alla Columbia, è arrivato lì, aveva visto sui monitor l'attacco, era tornato a casa e nel frattempo cercava di chiamarmi senza successo, quindi già mi dava per morto, sì. Quando io 2 ore dopo essermi fatti tutta la strada fino alla 65esima strada tutto bianco, coperto di polvere, sono arrivato, mi ha guardato come se avessi visto un fantasma. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Stiamo sempre ricordando quello che è successo l'11 settembre. Una delle canzoni che mi ha più colpito è quella dei Tori Amos, I Can't See New York. New York non si vede più, perché in effetti arrivando dal George Washington Bridge o dal Verrazzano Bridge oppure dalla 495, la strada che dal Kennedy arriva a New York, una delle cose che si vedevano prima di qualunque altro grattacielo erano le due torri che non ci sono più. Tori Amos, I Can't See New York. From here, no lines are drawn. From here, no lands are owned. Thousand and holding, swallowed in the purring of her engines, tracking the beacon hill. Is there a signal there? On the other side.